Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova stagione di Zibaldone, noi cominciamo subito forte, sentitevi questo brano. Onda Rossa posse! Batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, fotti il potere, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo per fottere il potere, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo. Questo è il nostro tempo, ti sta fermando perché non è esaltante, ma io lo voglio battere, sì, per farlo grande, non posso perderlo per aspettarti sacche. Chi da te? Dicono state calmi, ma tanto io li vedo, in armi che ci stanno cercando, guardano il cavallo, assassino segna il soldo. Maiali! Qual è la ricompensa, la vostra ricompensa per il leon camorto? Non posso fermarmi, in questa spaccatera ad armi, perché se lui rispondo nascosto nella giungla. Io dico quel che vedo, occhio, non invento niente, cos'altro potete dirti? Quindi non posso consumare le menzogne. Anche? Sono conosciuto le sconfitte. Tante! Io ci sono nato, ma intanto vedo chiaro, perché non vivo a caso, e guardo in fondo per capire meglio, alzandolo il livello. Cos'altro potete dirti? Forza! Chi è che si fa sotto? Partito tempo! Ubriachi! Senza avere un sotto! Come quella volta, davanti al fuoco della strada, la nebbia si dirada, era buio e ritruminata, i segui lo ripeto la posse. Onda Rossa posse! Un partito che paga, non rimiamo per rimane, non mai per guardare il male. Partito tempo! Partito tempo! Partito tempo! Batti il tuo tempo, fotti il potere, batti il tuo tempo, fotti il potere, batti il tuo tempo per fottere il potere. Era il 1990 quando usciva questo brano, Batti il tuo tempo, Onda Rosse posse. Sicuramente a molti dei nostri ascoltatori lo ricorderanno. Abbiamo voluto cominciare questa puntata di Zibaldone e la nuova stagione 2025-2026 di Zibaldone con questo brano per una ragione. Vediamo se l'avete capito, ma se no ci penserà il più ergonomico che mai, Enrico Banzola, detto Banzo, a cui do subito il benvenuto. Banzo, buon pomeriggio e buon inizio stagione di Zibaldone anche a te. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Non potevo cominciare la nuova stagione con parole diverse, sai che c'è un incantesimo che mi impedisce di farlo. Sì, cominciamo a bomba con un tema d'attualità che risale allo scorso agosto, perché agosto di solito è un mese molto per quanto riguarda l'attualità, quindi è buono anche per le operazioni repressive, ecco, diciamo. E infatti vado ad annunciare il titolo, la puntata di quest'oggi con la quale inauguriamo la nuova stagione si intitola Ora e sempre Leoncavallo, perché forse lo avete capito anche dal brano dell'Onda Rossa posse, parleremo del Leoncavallo che è stato sgomberato il 21 agosto. Diciamo che questo governo, era facile immaginare che con questo governo potesse succedere qualcosa del genere, perché è un governo che l'ha giurata da subito agli spazi libertari, non potrebbe essere altrimenti vista la loro formazione, e quindi c'è stato questo sgombero e vogliamo vedere le cose da più vicino, a circa un mese di distanza dai fatti. Sì, e soprattutto anche insomma celebrare il Leoncavallo, che proprio tra poco meno di un mese circa, compie 50 anni, ecco, quindi una storia di mezzo secolo, una storia importante, fondamentale per la città di Milano e non solo. Ci accompagneranno quest'oggi due ospiti, innanzitutto Andrea Cegna, giornalista, militante politico che sta seguendo da vicino proprio da Milano tutto quello che sta succedendo attorno alla vicenda del Leoncavallo, e poi con un attivista storico di questo centro storico, centro sociale milanese, scusate, Leoncavallo, che è Daniele Farina. Quindi insieme a lui e a loro cercheremo di fare il punto della situazione. Abbiamo cominciato con un brano che citava appunto il Leoncavallo, lo sgombero, il primo del 1989, sicuramente ci torneremo sopra anche con i nostri ospiti, e noi andiamo avanti anche per lanciare la prima intervista, la chiacchierata con Andrea Cegna, che è in collegamento con noi, Banzo, con un altro brano, in questo caso di una decina di anni fa, di una band, i Gang, di combat rock, che a Leoncavallo hanno suonato moltissimo nel corso della loro carriera, che ormai insomma è 40 anni che sono sulle scene, i Gang, una canzone che in fin dei conti è collegata a Leoncavallo, il titolo è, qui lo dico io e ti cedo la parola, Perché Fausto e Iaio? Beh sì, effettivamente Fausto e Iaio, cioè Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, ma sono ormai universalmente noti come Fausto e Iaio, sono due figure strettamente collegate alla storia del primissimo Leoncavallo, quello degli anni 70, perché infatti purtroppo questi due giovani, come credo saprete, vennero uccisi il 18 marzo del 78 perché stavano conducendo quella che con il linguaggio di allora si poteva definire una controinchiesta sulla diffusione della droga, dell'eroina e della cocaina nel quartiere, che è un tema che insomma all'epoca ha avuto una grande rilevanza, considerando anche poi la diffusione dell'ero negli anni Ottanta. Insomma, qui ci sarebbe da aprire una parentesi per la quale non abbiamo il tempo, Steven. Quindi i Gang, che hanno sempre avuto questa poetica, forse poetica non è la parola giusta, diciamo questo sentire, hanno dedicato a distanza di molti anni un brano a Fausto e Iaio, che venivano omaggiati anche nella sede storica del Leoncavallo, sì, quella appunto in via Ruggero Leoncavallo, perché c'era un murale a loro dedicato, comunque una sede nella quale Leoncavallo non era più da decenni. Ecco. Sì. Andiamo ad ascoltarci questo brano dei Gang, Perché Fausto e Iaio, e poi ne parliamo del Leoncavallo insieme ad Andrea Cegna. Attraversano il ponte poco dopo il tramonto, sono i figli promessi alla fine del mondo. Sono solo ragazzi fra la pioggia ed il fuoco, sono solo ragazzi fra il primo lavoro e l'ultimo gioco. Sulla via del ritorno il silenzio ora è strano, in una città che ha paura del vento e assomiglia a Milano, ma Milano non è. Perché, perché, perché Fausto e Iaio, perché, perché. Perché? Perché? Perché? Perché Fausto e Iaio? Perché? Perché? Perché? Diciotto di marzo, le otto di sera, sia maledetto quel giorno, maledetta quell'ora. In via Mancinelli sono otto gli spari, le spalle coperte, il sangue hanno freddo, i cinque sicari. Ma chi li manda presta servizio, è segreto e servo fedele riscuote a palazzo, ed io so chi è. Perché, perché, perché Fausto e Iaio, perché, perché. Fausto e Iaio, perché, perché, perché. Perché? Abbiamo in collegamento con noi Andrea Cegna, giornalista e militante politico, che ci accompagna, è uno degli ospiti di questa puntata di Zibaldone, per parlare di quello che sta succedendo a Milano con il Leoncavallo. Innanzitutto Andrea, benvenuto a Zibaldone, un piacere averti con noi. Un saluto a te Steven, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e, come si dice da un po', ascoltatriciu della trasmissione. Ascolta Andrea, cominciamo un po' subito, perché immagino che molti dei nostri ascoltatori hanno avuto modo di seguire o di sapere cosa è successo nell'ultimo mese riguardo al Leoncavallo a Milano, però magari facciamo brevemente il punto, no? Tra lo sgombero del mese di agosto e la situazione attuale, e anche le ragioni di questo sgombero e forse anche una contestualizzazione politica che è molto importante per capire gli avvenimenti e anche i possibili futuri scenari. Certo, sì, è una cosa da una parte molto lineare, nel senso che il 21 agosto le forze di polizia sono intervenute, hanno sgomberato il Leoncavallo in via Watteau, dove il centro sociale si trovava dall'8 settembre del 1994. Il tema è che questo sgombero è avvenuto nel bel mezzo di una trattativa e di un dialogo tra gli occupanti e le occupanti del centro sociale con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione tramite, diciamo, un trasloco attraverso la partecipazione a un bando proprio prodotto dal comune, e è stata un'accelerazione, perché l'ufficiale giudiziario che a luglio aveva dato come appuntamento per la scadenza dei termini per lo sfratto il 9 settembre. Sarebbe stata la 134esima volta che un ufficiale giudiziario passava da via Watteau per tentare lo sfratto. La politica, la destra, in piena campagna elettorale, o meglio accelerando l'inizio della campagna elettorale, ha deciso di forzare la mano, e invece che aspettare il 9 di settembre ha ordinato lo sgombero del centro sociale, con proprio rivendicazione del ministro dell'interno. È giusto anche ricordare che un po' lo spazio per questo sgombero si è dato anche un po' dalla fragilità e dalla poco coraggio che l'amministrazione milanese ha avuto, perché questo dibattito sul bando e lo spostamento del Leoncavallo era iniziato in febbraio, e diciamo che da febbraio ad agosto l'amministrazione non era riuscita a pubblicare il bando. In questo spazio la destra ha fatto la destra, è entrata a gamba tesa, ha fatto lo sgombero. Questo ha generato una reazione della città, che il 6 settembre è scesa in piazza e almeno 50.000 persone hanno attraversato la città per dire no allo sgombero del centro sociale Leoncavallo, e mettendo a critica in generale sia l'attacco che la destra ha aperto ai centri sociali, perché, diciamo, dopo lo sgombero del Leoncavallo in tante altre città esponenti di Fratelli d'Italia hanno chiesto lo sgombero pubblicamente dei centri sociali locali, anche quelli come il magazzino 47 a Brescia, che è stato comprato anni fa da un'associazione che ora lo gestisce in continuità con la storia del centro sociale, e appunto la risposta sono state 50.000 persone in piazza, anche per dire no a quello che da un po' di tempo sta succedendo a Milano, dietro a quello che la procura con un processo ha chiamato modello Milano. Non è tanto interessante il processo quanto, diciamo, il fenomeno di trasformazione urbana che ha accelerato processi, diciamo, di speculazione sulla vita delle persone, soprattutto il tema della casa. Ma lo Zibaldone, essendo ascoltato soprattutto a Barcellona, diciamo che che non c'è molto da raccontare in più su quello che è il tema del diritto all'abitare, no? Le problematiche che ci sono. Sì, sì, legate poi, insomma, a processi che vengono definiti in genere turistificazione, gentrification e così via. No, perfetto, questo è un quadro fondamentale, no, che ci spiega un po' la situazione e anche appunto i punti di domanda per quanto riguarda il futuro. Ecco, farei magari però anche un piccolo passo indietro, perché Leoncavallo ovviamente è un nome che suona, io immagino, a tutti i nostri ascoltatori, però ecco, forse vale la pena ricordare il significato del Leoncavallo per Milano, ma anche proprio per l'esperienza dei centri sociali in Italia e direi anche fuori dall'Italia, perché è una storia ormai di mezzo secolo. Sì, io direi che per fare a tappe forzate un po' il senso e il valore del Leoncavallo dobbiamo inquadrare tre punti. Il primo è la storicità. Il 18 ottobre del 1975 venne occupato proprio in via Leoncavallo per la prima volta uno spazio, si sta parlando di uno dei primi centri sociali proprio d'Europa, e questo è il Leoncavallo. Fino al 1993 si è trovato quindi proprio in via Ruggero Leoncavallo, vicino a via Padova, da qui il nome. Poi il primo sgombero, lo spostamento in un'altra sede provvisoria, e quindi poi l'occupazione dell'8 settembre del 94 in via Watteau. Ma è questo un punto. L'altro punto è quello del valore culturale e sociale dello spazio. Il Leoncavallo è stata patria, possiamo dire, delle sperimentazioni culturali e artistiche, prima di tutto musicali, con le varie esperienze dei grandi concerti, anche piccoli, della scena punk in downtown, di Helter Skelter, della scena del graffitismo, ma anche della produzione culturale. Basti pensare che Primo Moroni qualche anno fa scrisse proprio, studiando il caso Leoncavallo, un libro, Centri Sociali, che è impresa, in cui si metteva un po' in discussione anche come la vita dei militanti fosse stata studiata dal capitale per creare ipodromi della precarietà, speculando sul lavoro volontario che si faceva negli spazi sociali, perché diventava un lavoro che uno voleva fare, per questo era disponibile a farlo gratuitamente, e da lì quindi poi lo sviluppo proprio, non so, del terzo settore e di queste cose. Il terzo livello è quello del conflitto. Il Leoncavallo, tra la resistenza dello sgombero del 1989, poi il famoso 10 settembre, quando dopo una quindicina di divieti a manifestare e dopo l'occupazione di via Watteau, il Leoncavallo scese in piazza con una manifestazione nazionale che esplose in una rabbia collettiva, che dopo tanti anni vedeva questa scena della polizia scappare inseguita dai compagni e dalle compagne. Bene, questi tre elementi hanno fatto sì che il Leoncavallo diventasse una specie di luogo mitologico e quindi difeso dalla città. Diciamo che non è normale che a Milano, per uno sgombero di un centro sociale, 50.000 persone scendano in piazza, neanche quando sgomberarono Conchetta. Conchetta furono due grandi manifestazioni da migliaia e migliaia di persone, ma non 50.000. Cioè, qua era una manifestazione che ricordava per numeri e presenza allargata il 25 aprile. C'era dai centri sociali alla CGL, all'AMPI, per dire, c'era proprio la città, c'era il popolo, e anzi, meglio dire una cosa, ci sarà stato un 10% massimo di corpo militante, e tutto il resto erano persone di popolo, erano persone che sono scese in piazza per mostrare il loro sdegno per quello che era successo in questo, che possiamo dire, un altro simbolo di Milano, una specie di San Siro della controcultura e della politica antagonista. Ascolta, spesso si ripete che la stagione dei centri sociali è finita da un po', no? Non sono più gli anni 90, in cui non solo il Leoncavallo, di cui parlavi poc'anzi, ma anche in altre città, Roma, Bologna, eccetera, eccetera, Napoli, hanno vissuto, no, un'esperienza davvero viva, partecipata, creativa, un luogo anche appunto di militanza e di creazione politica, fondamentalmente. Ecco, secondo te è vera questa lettura che si offre, che i centri sociali, insomma, stanno vivendo un po', no, quelli che sono rimasti attivi o i nuovi creati un po' sui miti del passato, o in realtà invece continuano ad essere, anche se fuori per alcuni, per i radar di alcuni, centri di creazione, di ritrovo collettivo, vincolati alla città e alle battaglie, alle lotte del presente? Allora, io credo che sia una via di mezzo tra le due cose. Sicuramente non hanno l'incidenza sociale e politica che hanno avuto negli anni 90 e nei primi 2000, anche perché, secondo me, mi permetto, da persona che ha vissuto e vive i centri sociali in questo momento, non militando in nessuno di esso, quindi non facendo una critica di cui non sono parte, di cui faccio parte, anche perché non hanno avuto la capacità di rinnovare un linguaggio capace di parlare alle persone, spesso replicando appunto una formula che è quella un po' legata agli anni 90. Nonostante questo, rimangono un presidio di libertà, di sperimentazione e a volte di possibilità nelle città di vita e di incontro per chi ha pochi soldi, soprattutto in questo momento a Milano, che è una città dove la velocità è molto forte, e per dire, ormai non c'è più nessun posto dove praticamente entri a un concerto una serata con meno di 10 euro, il Leoncavallo, ma tanti altri centri sociali, sono un luogo dove invece il venerdì e il sabato puoi entrare gratuitamente o a volte con meno, no? E quindi hanno un ruolo, un'importanza, lì si sviluppano in tanti centri sociali, palestre popolari, autogestite, quindi insomma un valore ce l'hanno tuttora. Poi, devo dirti la verità, ci sono alcune esperienze in alcune città che hanno avuto la capacità e il coraggio, pur definendosi centri sociali, di uscire un po' dallo stereotipo del centro sociale che organizza i concerti dove bevi la birra. Penso all'ex OPG a Napoli o la BA Bologna, per esempio, poi ce ne sono altri, che hanno saputo invece rispondere alle esigenze di un pezzo di città, e quindi sono assolutamente attuali e attraversati da tante e tante persone. Quindi diciamo che sicuramente quello che è in crisi è quel modello anni 90 molto legato alla produzione culturale, però diciamo che l'idea di spazi liberi e fuori dal sistema di accumulazione capitalista hanno sicuramente ancora un senso. Probabilmente questo è anche uno stimolo, deve essere in questa fase storica, a sapere come rispondere alle esigenze delle città. Ascolta, un'ultima domanda, Andrea, dopo parleremo anche tra l'altro con Daniele Farina, uno degli storici no, militanti, attivisti del Leoncavallo, quindi che ha vissuto varie epoche di questo mezzo secolo di Leoncavallo. Però il modello Milano, prima lo dicevi, ecco, il modello Milano sembra che non ci sia stata nessuna differenza nel passaggio da un'amministrazione all'altra. Penso insomma all'epoca già diciamo della fine della Prima Repubblica, ma soprattutto poi alle amministrazioni di destra, a quelle poi di centrosinistra e in vista anche delle prossime elezioni. Ecco, un modello Milano che si inserisce in una trasformazione del capitalismo che ha a che fare con non solo l'Italia, non solo Milano, non solo l'Europa, ma tutto il mondo, e di cui anche accennavi prima. Ecco, tu che sviluppi possibili vedi in questa linea, anche tenendo conto di quello che si è scoperto negli ultimi mesi e che è sotto inchiesta, casi di corruzione che hanno a che fare appunto anche il modello Milano e la corruzione legata a insomma l'ambito edilizio e la speculazione del territorio? Io credo che le città siano un luogo complesso dove la povertà e la ricchezza devono trovare momenti simbiotici di convivenza. Cioè io non è che penso che dalla città, vabbè, preferirei che ci fosse un livellamento ovviamente a livello generale tra ricchi e poveri, ma quello che dico io, la città non deve essere un luogo né escludente per i poveri né escludente per i ricchi. Il problema è che in questo momento Milano ha espresso quello che, non so, Barcellona, Berlino, Londra e Parigi hanno vissuto un decennio precedente. Se noi pensiamo che l'elemento di svolta e che ha coagulato una trasformazione e una velocità di trasformazione della città è stato l'Expo del 2015, un progetto voluto dal centrodestra e poi governato dal centrosinistra, quindi con una sorta di continuità. Ricordiamo che Sala era il city manager di Letizia Moratti prima di diventare sindaco di Milano, no? Quindi è una persona assolutamente attiva dentro l'idea di trasformazione di Milano da diversi decenni, cioè non dobbiamo dimenticarcelo questo. Barcellona e le altre queste grandi città di cui stavo dicendo, i grandi eventi trasformativi che hanno accelerato e portato all'estremizzazione di alcuni percorsi li hanno vissuti Barcellona addirittura con le Olimpiadi del 92, no? Quindi diciamo che quando queste città hanno iniziato un dibattito pubblico di messa in discussione di alcuni assi della speculazione della trasformazione urbana, Milano è diventata la capitale d'Europa invece di quel processo di trasformazione. Quindi diciamo che quello che si sta vivendo è un po' questa cosa qui, poi in salsa milanese. Ricordiamo, non so, gli anni 80, no? Della Milano da bere, del progresso sotto i socialisti di questa città. Quindi quello che dico io è che il tema non è tanto il fatto che la città sia stata costruita in maniera verticale e che quando c'era lo spazio per una cantina è stato creato un grattacielo di 18 piani, per dire. Il tema è che in questo fenomeno di trasformazione non si è tenuto conto di chi non poteva permettersi di stare all'interno di questa città ed è stato espulso. Quindi il tema non è tanto che non mi piacciono i grattacieli, a me, per dirlo, a me i grattacieli piacciono anche. Il tema è come i grattacieli diventano un elemento che non permette alle persone di sentirsi espulse dalla città, perché è una città che negli ultimi 10 anni ha visto 900.000 persone cambiare, 400.000 se ne sono andate dalla città, 500.000 ne sono arrivate, quindi è una città attrattiva, è una città che piace, non possiamo dimenticare questa cosa qua. Detto questo, io sono una persona che da Milano prima è dovuto andare a Brescia e adesso che è dovuto ritornare a gravitare sulla città non può neanche permettersi di entrare e va a vivere a Sesto San Giovanni pagando un bilocale 800 euro al mese solo d'affitto. Quindi il nodo è questo, quindi lo stimolo che dalla questione Leoncavallo e dalla questione del modello Milano deve nascere non è tanto il tema se questo modello di città è stato fatto a livello legale o illegale, è come si tiene insieme tutto, perché e vado a chiudere, se noi pensiamo a quello che si sta discutendo in questi giorni su San Siro, senza entrare nel merito su tutta la questione della privatizzazione dello spazio, dello stadio, ma anche quello che è successo, lo stadio verrà venduto a Milan Inter con uno sconto di 22 milioni di euro in una città dove ci sono 16.000 case popolari vuote che possono essere ristrutturate con 30-40 mila euro. 22 milioni di euro, quante case popolari vuol dire sistemare? Cioè, è questo il nodo della città, non è tanto la vendita di San Siro e che Milan e Inter facciano il loro stadio, ma è a che costo viene fatto fare il nuovo stadio a Milan e Inter? Sì. No, hai perfettamente ragione ed è molto chiaro. Andrea, ti ringraziamo davvero di essere stato con noi, ci ritroveremo presto anche per magari seguire anche gli sviluppi del Leoncavallo, speriamo siano positivi e un grande abbraccio. Up to me to break my head. How, why, I was asking myself, what have I done with my pretty, pretty face? You're at the wrong time, in the wrong place. Keep on running, just to keep your life safe. Running fast, running fast, running fast, running fast, running fast, running fast. Let me take. abbiamo in collegamento con noi Daniele Farina, storico frequentatore del Leoncavallo. Daniele, innanzitutto un piacere averti con noi. Ma ringrazio voi in questo momento, diciamo, in cui il Leoncavallo, spazio pubblico autogestito, è, diciamo, nomade, nel senso che non ha più sede dopo l'ultimo sfratto. Non è il primo della sua storia, ma l'ultimo sfratto che è avvenuto, come ormai un po' tutti sanno, il 21 di agosto, diciamo. Eh sì, praticamente. Non è una poche settimane fa. Non è, agosto non è un mese che porta fortuna, diciamo, al Leoncavallo, perché storico rimase lo sbombero del 16 agosto dell'89, poi ci fu l'agosto del 94 in una nuova sede che era stata requisita dalla prefettura, e infine questo sfratto. E ora il Leoncavallo, diciamo, le nuove generazioni, che per fortuna lo gestiscono, perché sarebbe un po' grottesco se fosse la mia ancora, diciamo, che avesse il passo dei tempi, e ora, diciamo, il Leoncavallo cerca una nuova sistemazione. È un po' come una squadra di basket sul limite dell'area avversaria che palleggia in attesa di trovare un varco. Diciamo, la vicenda è molto lunga negli anni, perché parliamo del 75, la prima occupazione, un'ex fabbrica farmaceutica in via Leoncavallo, da cui Leoncavallo prende il nome, un'area dismessa, quella requisita nel 94 alla Krupp, un'altra area dismessa, quella di via Watteau, che era una cartiera, una stamperia della casa di Gerson Zoni. Quindi parliamo di aree dismesse, perché quelle esperienze nascono tutte, non solo il Leoncavallo, per fortuna tante altre, su un'abbondanza di aree ex industriali, site come crateri, diciamo, nel corpo delle principali aree metropolitane italiane. Milano certamente anch'essa. Qual è la differenza con l'oggi? Che oggi queste aree dismesse non esistono più. Sì. Nel senso che quella battaglia, possiamo dirlo senza nessuna paura, è stata persa. Decine di milioni di metri quadrati di aree ex industriali, scali ferroviari, sono state destinate a quella che viene chiamata riqualificazione, se volete, o rigenerazione, che ovviamente le ha esaurite, noi ci permettiamo di dire, ma credo sia l'evidenza per tutti, a grande vantaggio dell'edilizia privata e a minor vantaggio per la città. Oggi la sfida è questa, e quando si parla del nuovo modello Milano città verticale, la città verticale che dovrebbe essere il modello, in realtà è un limite, nel senso che esaurite le aree dismesse, esaurite le superfici, il suolo è diventato una risorsa scarsissima, e quindi si procede alla verticalizzazione anche in luoghi, si è cementificato perfino nei cortili, torri di 20 piani, ove anche la magistratura ha avuto rilievi, da cui un'inchiesta è ancora in corso, che si vedrà come andrà, ma al di là degli esiti giudiziari, quello che è abbastanza evidente è che le amministrazioni che si sono succedute hanno privilegiato alcuni interessi assai meno gli altri. Oggi il suolo, appunto, come risorsa scarsa, è oggetto di una contesa che rimette in discussione anche ciò che lotte passate e anche presenti, attività sociali di altissimo valore, eccetera, hanno consegnato a usi sociali e collettivi. Ecco, secondo me, spiegate in poche parole la vicenda, il sottostante, diciamo, la vicenda dell'ultimo sfratto di agosto. Sì. Lo riassumevi benissimo, mezzo secolo di storia che appunto accompagnano anche le trasformazioni della città di Milano. Ricordavi anche i precedenti sfratti, tra l'altro appunto il mese di agosto che torna nella storia del Leoncavallo. Quello che ti volevo anche domandare, appunto cercando anche una diciamo una prospettiva di long durée, no, storica su questo mezzo secolo, riguarda gli appoggi del Leoncavallo, la solidarietà della cittadinanza. Ecco, tenendo conto delle esperienze previe dell'89, del 94, qual è la tua impressione? Ovviamente Milano è cambiata, sono cambiate anche, no, le persone che hanno frequentato il Leoncavallo, o forse non è così? Ecco, tu un po' come la vedi, facendo anche dei parallelismi con il passato? Ma guarda, innanzitutto l'ultima manifestazione è stata una manifestazione molto ampia, diciamo oltre 20.000 per la questura, diciamo 50.000 non per gli organizzatori, ma numero reale. Una manifestazione intergenerazionale, questa secondo me è stata una roba estremamente interessante, cioè più generazioni, da quelle giovanissime a quelle più anzianotte come posso essere io e anche più anziane ancora, che hanno attraversato queste esperienze al plurale. Un pezzo di città resistente rispetto alla scelta dello sgombero, ma che ha aperto anche una discussione sulle cose che dicevo prima. Non mi sembra che l'attuale amministrazione abbia colto per il momento la complessità di questo dibattito che si è aperto, che ha sullo sfondo, non dimentichiamo, c'è anche le elezioni comunali di Milano che verranno, diciamo, fra due anni, ma la cui campagna elettorale è iniziata, e sia nella scelta del Ministero degli Interni di gestire direttamente questa vicenda per la quale si cercava una soluzione diversa, sia l'attuale amministrazione, appunto, sono di fatto in campagna elettorale. Questo va tenuto presente per capire in realtà cosa succede. Manifestazione intergenerazionale, manifestazione di città, quindi una manifestazione assolutamente non minoritaria, non è la prima nella storia del Leoncavallo. Quello che però è chiaro è che la composizione della città, la composizione sociale, è profondamente cambiata. Quei meccanismi a cui, diciamo, accennavo prima, hanno prodotto un cambio di sangue, hanno prodotto tensioni enormi sul piano abitativo. Non è un destino diverso da quello di altre città europee, per carità, però Milano ha una caratteristica, un comune molto piccolo, sono 188 chilometri quadrati, basti pensare che Roma è 7-8 volte tanto con queste estensioni. Quindi questo processo che viene chiamato gentrificazione, ma insomma, al di là delle terminologie, è abbastanza chiaro il meccanismo di espulsione graduale dalla città, o verso neanche più la periferia della città, ma l'area metropolitana più in generale, di interi pezzi di popolazione. Non stiamo parlando soltanto, diciamo, di quelle, diciamo, composizioni più a basso reddito, eccetera, ma parliamo anche del ceto medio, cioè sono processi che si sono aggravati anche a partire dal fatto che esiste in Italia una nuova legislazione che permette ai super ricchi di tutta Europa di venire a Milano per, diciamo, stabilire residenze, pagare una flat tax piuttosto irrisoria, che ha prodotto che 2000 presenze di questo tipo negli ultimi anni siano instaurate in città, diciamo, non comprando appartamenti ma comprando interi palazzi nelle zone centrali, con un meccanismo di accelerazione, no? Di questo. Quindi la composizione di classe è cambiata. Adesso la scommessa è quella che questa nuova città, questa nuova area metropolitana, diciamo, sappia trovare ancora una volta quegli elementi di critica delle politiche e del presente che è stata capace di trovare in passato, di mettere in campo un'azione contraria, di contrasto a quelle politiche, tra le tante cose che questa dovrebbe comprendere, ma è veramente la più piccola, e anche, diciamo, riuscire a ricollocare il Leoncavallo con le sue funzioni in un diverso spazio. Quali sono i prossimi passi secondo te, o quali prevedi che possono essere i prossimi scenari, tenendo conto di quello che ci hai appena raccontato? Allora, diciamo che fatta una grande assemblea cittadina che ha preceduto la manifestazione, toccherà ripassare dalla città nelle prossime settimane nuovamente in una forma consultiva, mettendo sul tavolo anche le opzioni che ci sono. Quindi un passaggio che dalla città deve tornare alla città, e poi si vedrà da farsi. Per adesso sul tappeto ci sono due opzioni: una riguarda la vecchia area, via Watteau, il reinsediamento delle attività lì da dove si è stati sfrattati, un'operazione molto difficile, molto, molto delicata, si vedrà in che modo, se e in che modo. L'altra è un'opzione che ha messo sul tavolo il Comune di Milano, che riguarda un'area estremamente periferica, che presenta una serie di problemi legati all'essere, diciamo, da bonificare, inquinata all'amianto ed altre, che è stata messa a bando già più volte, non è mai stata, nessuno ha mai manifestato l'interesse, che si capisce il perché. Il comune insiste che è l'unica opzione che hanno, la migliore che hanno, e che ci racconta ancora una volta le cose di prima, che anche il comune di Milano, la municipalità di Milano, forse direste voi, di fatto non ha più niente, perché si è venduta in questi 20-30 anni, si è venduta sostanzialmente tutto. Quindi è proprio la scarsità, diciamo, del suolo che diventa l'elemento dirimente, la possibilità di insediare, diciamo, funzioni complesse, ma quelle di uno spazio pubblico essenzialmente, che non sono volte all'edificazione privata e alla valorizzazione estrema del territorio a fini residenziali, ma svolgono un ruolo diverso, se non si passa attraverso la necessità di quelle funzioni in area metropolitana, tutto diventa difficile. Eh sì, la questione, come si suol dire, è complessa, e ci auguriamo che, insomma, il processo anche di coinvolgimento della cittadinanza possa portare a, insomma, a vedere degli sviluppi positivi della storia del Leoncavallo. Daniele, grazie davvero di essere stato con noi e ci auguriamo di ritrovarti presto anche per parlarci. Speriamo di avere aggiornamenti positivi nelle prossime settimane e mesi, anche se sarà, temo, una battaglia lunga. Esattamente, esattamente, ma noi continueremo a seguire la vicenda e speriamo di insomma potervi anche aiutare a distanza con almeno la nostra solidarietà. Vi ringrazio, vi ringraziamo, le varie generazioni del Leoncavallo, ma i milanesi, diciamo, ringraziano voi. Gli Stati Uniti scossi per il trapper Baby Gang, che in un videoclip ostenta una copia del nuovo romanzo di Dan Brown. Nello scritto non manca un elenco dettagliato dei capitoli. Trump pronto a sanzionare Putin, a condizione che i paesi NATO smettano di acquistare libri. In un videomessaggio diffuso sui muri di Foggia, Giorgia Meloni omaggia la storia di un gruppo di animali fantastici di Vox a Madrid. Ecco da che lato sono violenza e intolleranza. Il nostro allarme di piante dosi. Sulla Costituzione ci sarebbero frasi antifasciste. Gli Stati Uniti scossi perché in Giappone vivono quasi 100.000 fan di Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio. Tra curiosità e nuove polemiche, in molti si chiedono: al Masrin ci toglierà il lavoro? Entro 5 anni potremmo fare il bagno ovunque e in qualsiasi momento. Un obiettivo assolutamente realizzabile per Tyler Robinson, dalla cuccia pro Trump al coinquilino pro Tajani, dal pesce che gli sarebbe stato fornito da una famiglia di macedoni fino alla passione per i video di Gerry Scotti al setaccio La vita del killer. La sua unica risposta: forse potrei ritirarmi. Come avete sentito, sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto, che salutiamo e ringraziamo, non possono mancare anche in questa nuova stagione di Zibaldone. Banzo telegrafico, un commento, perché il mondo veramente non lo capisco più, le ultimissime non mi aiutano, però insomma, dici tu che fare, che capire di tutto ciò. Non sei l'unico, Steven, il mondo è un serraglio e non è nemmeno un bel serraglio. Si capisce anche dal fatto che l'attentatore di Charlie Kirk avesse una passione per i video di Gerry Scotti. Beh, d'altronde internet ha globalizzato il mondo e forse li guarda senza capire cosa dice, ma forse sai quel famoso video del bancone di Station La Notizia non ha bisogno di parole e piace un po' a tutti, credo, in tutto il mondo. Come ci ha insegnato Kabilame, ecco, non c'è bisogno di parole per diventare famosi nel mondo, Steven. Eh sì, è proprio così. Musica, ci siamo sentiti un po' di brani che hanno a che fare in fin dei conti con il Leoncavallo, la storia dei centri sociali italiani. Tra la chiacchierata con Andrea Cegna e quella con Daniele Farina abbiamo ascoltato Running Fast, un brano di Meg che è stata, il suo vero nome è Maria di Donna, membro dei 99 Posse, quindi mitica band legata appunto alla stagione anche dei centri sociali, in quel caso quelli napoletani, l'Officina 99. E Running Fast è una canzone che Meg scrisse poco dopo i fatti di Genova del 2001. E poi ci siamo ascoltati invece un brano un po' in realtà che ci porta più indietro, per quanto sia della fine degli anni 90, Il Faux Martelet, un brano strumentale degli Area, International Popular Group, che al tempo della nascita del primo Leoncavallo, appunto la metà degli anni 70, erano sulla scena, erano i protagonisti, possiamo dire, della scena musicale alternativa milanese, ma che poi dopo la morte, come sapete, di Demetrio Stratos, insomma, si erano sciolti all'inizio degli anni 80. Però nel 97 proprio Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo avevano riformato la band, avevano prodotto questo album con un titolo molto particolare, quasi fantascientifico, Chernobyl 7991, che conteneva appunto questo brano. E c'è un aneddoto molto simpatico, Banzo, che ha a che fare gli Area e il Leoncavallo. Steven, stavo scalpitando, non puoi immaginare quanto stavo scalpitando per raccontare questo aneddoto. Beh, appunto, gli Area si riformano dopo il primo scioglimento nell'82, nel 1997, con due membri storici, Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo, del disco hai già parlato tu, suonano a Leoncavallo il 17 gennaio, quindi perché evidentemente gli Area in un contesto del genere sono estremamente a loro agio, ma c'è un imprevisto, perché intervengono i carabinieri, vengono denunciati gli Area in quanto, a quanto si legge dal verbale, cito, in concorso tra loro con le qualità e la condotta e nel luogo descritti al capo H dell'imputazione di abusare di strumenti musicali e cagionare delle emissioni rumorose e intollerabili. Fariselli è estremamente sportivo, diciamo, infatti ha esibito la denuncia come una specie di medaglia al valore sulla copertina di una raccolta che poi è uscita nel 2005. Io avrei fatto la stessa cosa, anche se a differenza di Fariselli non ho nessun talento musicale, ma approvo il suo gesto. Andiamo adesso, visto che siamo agli ultimi sgoccioli di questa puntata di Zibaldone, facciamo un po' un salto musicalmente parlando e andiamo a ascoltarci questa canzone di Giorgio Poi, ve lo diciamo dopo il perché. Thank you. so che ogni tanto anche Cristoforo Colombo, mordendosi la lingua, avrà maledetto il mondo. Atlantici, delle correnti calde che mi invitano a rincorrerli. I salti mortali fanno paura anche a chi dice che non ne ha, mentre i biscotti della fortuna dicono sempre la verità. Titola Delle barche, i transatlantici, questa bellissima canzone di Giorgio Poi, un cantautore che, se non lo state seguendo, dovete seguirlo. È tratta dal suo ultimo album, il quarto, uscito in questo 2025, intitolato Schegge. E la mandiamo in onda perché, Banzo, la prossima settimana, tra pochi giorni, lunedì prossimo, 22 settembre, Giorgio Poi sarà a Barcellona e suonerà alla sala La Nau. Esatto, accompagnato da Laurent Brankovic dei Phoenix, che è stato anche produttore del suo ultimo album. Non lo so, spero per Giorgio Poi che il lunedì non sia un giorno pregiudiziale, perché forse fra tutti i giorni della settimana è meno adatto ai concerti. Comunque, piccola nota curiosa, per presentarlo ai frequentatori del loro sito, della Nau, che sono ovviamente in maggioranza non italiani, Giorgio Poi viene introdotto come pop mediterraneo. Mi sembra una definizione curiosa, ciò che ha colpito anche te, Steven. Sì. Comunque, posso anticipare, senza fare nomi, che sappiamo già che sarà un autunno abbastanza intenso per gli artisti italiani. A Barcellona cercheremo di notificare per tempo e di seguire questi prossimi eventi. Assolutamente, noi però ora ci salutiamo come sempre con l'ultimo trago. In questo caso è un omaggio a una grande figura della cultura italiana, Stefano Benni, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 9 settembre. E noi vogliamo omaggiarlo, speriamo magari anche in futuro di potergli dedicare una puntata, lo scopriremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con un brano che che è di Alessandro D'Alessandro insieme a Musica Nuda, ossia Petra Magoni alla voce, Ferruccio Spinetti al contrabbasso, che è uscito in un disco di ormai 4 anni fa, di questo bravissimo organettista, un organetto preparato ed elettronica, è così l'album di Alessandro D'Alessandro, Canzoni per organetto preparato elettronica, questo è proprio il titolo, che avevamo già presentato a Zibaldone e che appunto è un brano, una poesia, un testo banzo di Stefano Benni. Sì, perché c'è una serie di giri per arrivare all'album di Alessandro D'Alessandro, perché in effetti la storia parte verso la fine degli anni 90, quando Benni scrive questo testo di questa canzone, si intitola Quello che non voglio, per Fabrizio De André, che però non riuscì a musicarla per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, e diciamo rimane in un cassetto, come succede in questi casi, per molti anni, fino al 2011, quando il testo viene pubblicato nella raccolta di monologhi Le Beatrici, viene poi musicato nel 2015 da un altro personaggio che a Zibaldone diciamo ha veramente diritto di cittadinanza, che è Fausto Mesolella, per un progetto che si intitolava appunto Canto Stefano, cioè 11 canzoni realizzate a partire da poesie a testi di Benni, già presentato a suo tempo a Zibaldone, e alla fine di tutto questo giro arriviamo alla versione di Alessandro D'Alessandro che vi facciamo ascoltare per ricordare Stefano Benni, per chiudere questa prima puntata della nuova stagione. Effettivamente, noi ci ritroviamo quindi venerdì prossimo, buon venerdì sera, buon fine settimana, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, ogni venerdì sera alle 17.55 più o meno diceva: non ve l'abbiamo anticipato, però stagione nuova, tecnologie nuove, la prossima puntata andrà in onda con un videomessaggio sui muri di Foggia, come ha fatto la Meloni nelle ultimissime. Ciao Banzo. Se siete a Foggia è più facile. Buon venerdì sera, bye bye. Buon sonno del padrone, servirà la mia canzone, a gola storta voglio cantare Ringhio di porco e romanze nere, voglio svegliarvi col fiato ansante, io non voglio morir cantante, io non voglio morire poeta, di ogni passione scegliere la dieta, gioie amorini e dolori piccini, da imbalsamare dentro il rimario, della giuria il valor letterario, coda di sangue alla mia cometa, io non voglio morir poeta. Io non voglio morire artista, accucciato come un vecchio cane, sotto al trono del re di danari, tra le caculi e cortigiane, che alle mie rughe vogliono rubare fiori di gelo, dolore e fame, e accendo il fuoco della mia vista. Io non voglio morire artista. Alberi del mio giardino annaffia il sangue del mio vicino, meglio la peste che l'ipocrita danza, di vostra santa beneficenza chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra io non voglio morire. Io non voglio morire attore dentro allo schermo di un paradiso, crocifisso, un finto sorriso di morti in gingheri, ribelli servili, re dello schermo, generale dei vili, ti sto davanti e voi, belle signore, guardate la scena dove gli mangio il cuore. Perché io non voglio morire attore. Tra una corda e l'altra, saltando dentro la cassa di una vela da gamba. ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama, e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura. Povere genti che ai minestrelli credete, dimenticarvi di me non potrete, ed io di voi scordarmi non posso, dentro un tramonto feroce e rosso, dentro un cielo di sangue e vino. Ascoltate come sembra il primo, l'ultimo accordo che io imparai. Io non voglio morire, e a morire io non riuscirò mai.